ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. La volta scorsa abbiamo letto le considerazioni di Hans Magnus Enzensberger sulla libertà delle fantasie sessuali degli antichi, almeno a giudicare dalle testimonianze del mito. Una delle storie citate dallo studioso è quella di Leda, la madre della bellissima Elena e dei suoi fratelli, i Dioscuri, Castore e Polluce. Leda è un personaggio che, con caratteristiche leggermente diverse, compare già in miti pre-ellenici. Probabilmente è un'altra forma di Latona, in greco Leto, e Latona, vi ricordo, è la madre di Apollo e Artemide. La vicinanza dei due personaggi si vede anche nel fatto che a Latona era sacro il cigno, un animale che, vedremo, è centrale nella storia di Leda. I cigni erano sacri a Latona sia per le loro penne bianche, sia perché volano in formazione a V, simbolo femminile. Esistono molte varianti della vicenda di Leda. Una di queste vuole che Zeus si fosse innamorato di Nemesi, una delle figlie di Notte ed Erebo, dal cui fecondissimo connubio, avvenuto in tempi assai remoti, furono generati fra gli altri il fato, la vecchiaia, la morte, l'assassinio, la continenza, il sonno, i sogni, la discordia, la miseria, l'ira, la gioia, l'amicizia, la pietà, le tre Moire e le tre Esperidi. Poiché non ricambiava la passione di Zeus, Nemesi si tuffò in acqua e divenne un pesce. Il dio la inseguì, trasformandosi in castoro. Allora Nemesi balzò sulla riva e si cangiò in tanti animali diversi nel disperato tentativo di sfuggire a Zeus, che, anziché rinunciare all'inseguimento, si tramutò in bestie sempre più forti e agili di quelle la cui forma aveva, di volta in volta, assunto Nemesi. A un certo punto, divenuta oca selvatica, volò lontano. Ma Zeus si fece cigno e la raggiunse, congiungendosi a lei. Nemesi si recò sconsolata a Sparta, dove scrollò le piume, lasciando a terra un uovo. Qualche giorno dopo, la regina del luogo, Leda, trovò in una palude un grande e bellissimo uovo color giacinto. Lo prese e lo portò a casa, riponendolo in uno scrigno. Un giorno sentì dei rumori provenire dallo scrigno. Lo aprì e, sorpresa, l'uovo si era schiuso e ne era uscita una bambina bellissima, alla quale fu posto il nome Elena, colei che un giorno avrebbe causato la guerra di Troia. Secondo un'altra versione del mito, l'uovo sarebbe invece caduto dalla luna, proprio come l'uovo che, nei miti orientali, generò la dea dell'amore siriaca. Più diffusa però è un'altra versione ancora, secondo la quale Zeus, in veste di cigno, si unì a Leda stessa sulle rive del fiume Eurota. Leda depose quindi un uovo, dal quale nacquero Elena, Castore e Polluce. L'unione di Leda con il cigno ha ispirato molti artisti, da Leonardo da Vinci a Michelangelo, a Tintoretto, a Correggio, a Géricault, fino ad arrivare ai più recenti Cézanne, Matisse, Dalí. I pittori sono affascinati dall'incontro fra la donna e l'animale, che hanno rappresentato talvolta come un connubio delicato ed evidenziando come la sinuosità del collo dell'animale richiami le rotondità della donna, dall'altra, per esempio Dalí, sottolineando invece la violenza dell'assalto del volatile. In tutti i casi resta la stranezza del rapporto che, come spesso avviene nelle civiltà antiche, mette in dubbio i confini tra regno umano e animale e, per riprendere un'espressione di Italo Calvino che abbiamo già citato, dipinge un mondo dagli incerti confini, dove la metamorfosi non è l'eccezione, ma la regola, e dove l'uomo non si vede come signore dell'universo, in cima alla piramide del potere, ma come facente parte dell'eterno divenire delle forme. Una visione molto lontana da quella affermatasi nel corso della storia, dove l'uomo si è considerato signore dell'universo, superiore a tutti gli altri esseri creati. Eppure la stessa scienza oggi dà in qualche modo ragione alla visione antica. Pensate alla teoria dei tre cervelli, che nell'uomo funzionano insieme e comunicano fra loro: quello rettiliano, quello dei mammiferi bassi e quello dei mammiferi elevati, cioè più propriamente umano. Nelle pagine iniziali del romanzo Demian, Hermann Hesse rende in modo molto suggestivo il processo di scoperta di sé che passa attraverso tutte le fasi evolutive della vita dell'universo. Ascoltiamolo. La vita di ogni uomo è una via verso se stesso, il tentativo di una via, l'accenno di un sentiero. Nessun uomo è mai stato interamente lui stesso, eppure ognuno cerca di diventarlo, chi sordamente, chi luminosamente, secondo le possibilità. Ognuno reca con sé, sino alla fine, residui della propria nascita, umori e gusci d'uovo d'un mondo primordiale. Certuni non diventano mai uomini, rimangono rane, lucertole, formiche. Taluno è uomo sopra e pesce sotto, ma ognuno è una rincorsa della natura verso l'uomo. Tutti noi abbiamo in comune le origini, le madri, tutti veniamo dallo stesso abisso, ma ognuno, tentativo e rincorsa della profondità, tende alla propria meta. Possiamo comprenderci l'un l'altro, ma ognuno può interpretare soltanto se stesso. Parole che ci danno da pensare, vero? Ne riparleremo la prossima volta. A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof, ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.